ovviamente il movimento No TAV comincia a credere che la lotta ambientale adesso la vediamo come una roba di un'attualità mostruosa, però noi ci siamo portati avanti, siamo dei veterani di questo, perché da noi è 30 anni che un certo, diciamo, apparato di potere si è messo in testa che vuole stuprare una montagna, fare un buco così grande dove dovrebbe passare un treno con i bilici sopra, cioè quando hanno una linea che se si provassero a dire che è inefficiente o pericolosa dovrebbero chiuderla domani, invece stanno continuando a passare la linea che hanno già e sono tutta utilizzata, ma potrebbe portare l'80% di prodotto in più. Ma loro hanno pensato a bucare una montagna. Io comincio a credere che la montagna in una madre terra non è una roba inerte, c'ha vene, c'ha arterie, sarebbe raccoglie l'acqua, la deposita con i tempi giusti per riempire le falde acquifere. Però oramai li abbiamo sgamati, anche perché noi abbiamo visto qual è il più grande conflitto di interessi che abbia un paese dove vive di conflitto di interessi. I proponenti l'opera, sostenuti dalla politica, sono da anni che vivono di questi stipendi e non lo direbbero neanche sotto tortura che quella roba lì è inutile. Però a me non interessa che sia inutile, perché io sto quasi tifando che questo paese fallisca, così poi vediamo chi è capace a rilavorare la terra e rimettere su una società nuova, migliore. Noi stiamo vedendo questo, il conflitto di interessi nostro qual è? Che vogliamo una valle salubre, vogliamo una valle dove i nostri figli non vengano intossicati dalle loro polveri, per cui dico, siamo veterani, ma adesso vedo che ho tanti figli che adoro e sarà una battaglia abbastanza dura, ragazzi. Ragazzi, io ho notato la forza che ha il sistema, la forza di repressione, quando voi se vorrete scendere in piazza a chiedere i diritti con i denti, troverete questi signori qua a fianco, per cui per questa volta gli chiediamo col cappello in mano un po' di considerazione di chi vuole un ambiente non intossicato, però la prossima volta mi piacerebbe che lo facessero con i denti e con le unghie.